prima o dopo guardi quello che fai e cominci a pensare alla parte di te che scompare. E prima o dopo ritorna ai posti che ti hanno visto bambino quando intorno a te era mattino. Le grandi idee, la luminosità sono ancora là nella mente di chi si ricorda. Grida di giochi, casa mia e mia madre che sa capire quel che ho se mi guarda. E prima o dopo cammini come me lungo piste illusorie a cercare passato e memorie, sopravvivi così. E prima o dopo al contrario rifai quel che è stato il tuo corso fino ai giorni d'azzurro più terso. E prima o dopo ricerchi in fondo a te immagini precise ricordando con chi l'hai divise. Piccoli hotel, le prime velleità non ci lasciamo più, giuramenti e dati, esperienza. Lei sottovoce non mi fare male, la sua nudità è finita già l'innocenza, l'innocenza. E prima o dopo ti rendi conto che non c'è altro ritorno che rimpiangere giorno per giorno quello che non hai più, quello che non sei più. Sì, prima o dopo.